l'altra Europa. Sono le 12.08, è sabato 7 marzo, siete in diretta, questa è Radio 24, io sono Federico Taddia, ben ritrovati all'Altra Europa, l'appuntamento che ogni settimana dedichiamo alle opportunità, alle possibilità, alle storie, alle persone dell'Europa, Europa di cui seguiamo l'attualità politica ed economica, giorno dopo giorno a Radio 24, senza certo nascondere le criticità, cosa che non facciamo neppure all'Altra Europa. Il sabato però cerchiamo di raccontare anche la faccia bella, la faccia delle risorse che l'Europa mette a disposizione, cercando di capire cosa si può fare con questi soldi, quanta e quale creatività è bene attivare. Le coordinate per seguirci anche virtualmente: Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia per seguirci su Twitter e su Facebook, le nostre bacheche digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, che potete poi ritrovare sul nostro sito radio24.it oppure sulle portale euronetplus.eu, che è il portale del network al quale apparteniamo. Queste le informazioni, ora si parte, ogni settimana un viaggio, oggi partiamo giocando in casa, partiamo da Perugia per raccontarvi come l'Europa può essere raccontata anche in modo diverso. Loro sono i Deep Blue Trio e non potete conoscerli perché hanno partecipato ieri sera a un concorso per band emergenti, per band che appunto non abbiano mai presentato canzoni commercializzate. Era la prima tappa del European Social Sound, questo concorso per band musicali che è stato organizzato dalla Regione Umbria per raccontare l'Europa in modo diverso e per dimostrare come con i fondi europei si possono fare eventi nuovi, divergenti, eventi che abbiano ricadute sul territorio e che siano social, sia dal punto di vista virtuale, ma social nel senso che facciano comunità sul territorio. Di tutto questo ne parliamo con Mara Fraticelli, che è responsabile della comunicazione FS Umbria, ideatrice e organizzatrice del progetto. Buongiorno Mara, benvenuta all'Altra Europa. Grazie, buongiorno a voi. Cosa significa portare su un palco, su tanti palchi anche, perché è un progetto itinerante, tanti giovani, tante band, tanta musica, per appunto raccontare l'Europa? Significa, come diciamo con il nostro claim, un'opportunità in più per farsi conoscere, un'opportunità in più per conoscere, perché io ritengo che fare convegni o iniziative di tipo tradizionale non aiutino la conoscenza di tutti quegli strumenti e quelle opportunità che il Fondo Sociale Europeo mette a disposizione dei giovani, ma anche dei meno giovani. E quindi da qui l'idea di un concorso itinerante per band emergenti, abbinato ovviamente, perché sappiamo che ci sono i cambi palco, no? Quando ci sono queste occasioni, in questi minuti, come dire, fra virgolette morti, abbiamo dato la nostra comunicazione in maniera abbastanza dinamica. Quindi tante band, appunto tante tappe, ieri sera Foligno, poi ci sarà Terni, Città di Castello, sì. Perugia con la data ancora da definire perché forse ci sono le elezioni regionali, musica e giovani, quindi vuol dire un target preciso e una grammatica molto vicina a loro, che è quella della musica. E tra una band e l'altra riuscire a comunicare l'Europa, in che modo? Ma semplicemente portando all'attenzione dei giovani presenti degli esempi pratici. Noi abbiamo realizzato, abbiamo proiettato degli ispezioni di trasmissione dove abbiamo preso dei veri usufruitori, come dire, delle politiche, dei ragazzi che avevano trovato lavoro, sia dipendenti o comunque che avevano fatto impresa da sé, grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Quindi proprio per far toccare con mano che ci sono queste opportunità e si devono trovare. Quindi una piccola cartina per orientarsi, ovviamente non siamo scesi nel dettaglio, dettaglio, ma per sapere, per comunicare alle persone dove ci trovano, che cosa trovano e come fare per partecipare. Questo era fondamentalmente diciamo l'obiettivo. E comunque vi faccio i complimenti, perché voi avete mandato un pezzo dei Deep Blue Trio, che sono uno dei quattro, delle quattro band che passerà alla finalona. Come siamo stati bravissimi, bravi nella scelta. E ieri sera la prima tappa di questo format, e qual è stata la reazione dei ragazzi? Ma allora, innanzitutto il pubblico era abbastanza variegato e appena la prima canzone sono venuti molti da me, che hanno capito che era quella, ero quello che organizzava e poi presentavo anche, per dire: ma lo rifate? Io ho detto: beh, veramente ancora dobbiamo fare questo. Poi sicuramente, come dire, andremo avanti, anche perché poi abbiamo avuto l'apporto veramente di grandi professionisti. Anzi, ho qui una bellissima e sorridente vostra collega Tamara Taylor, che era in giuria. Oh, sì. E qui proprio davanti a me abbiamo parlato di tante cose per dare poi seguito a questa iniziativa e aiutare i giovani in tutti i sensi. Mm-hmm. E premio finale garantito, registrazione da parte di una casa discografica, il videoclip, la partecipazione probabilmente anche al meeting delle etichette indipendenti. Insomma, avremo modo di parlare ancora di questo progetto. Europeansocialsound.it è il sito internet, e c'è anche la pagina Facebook ovviamente per seguire questa cosa. Sono quelle idee che ci piace raccontare, perché sono anche idee che vanno replicate, che vanno copiate, che possono diventare ispirazione per itinerari simili. Sarà copiato? Sì, la Regione Sardegna ha stipulato con noi un accordo di cooperazione a livello di comunicazione e porteranno questo format in Sardegna più in là. Anzi, la mia omologa verrà a farci visita alla Finalona, in modo da poter, come dire, confabulare meglio su come organizzare. Quindi non escludiamo, come dire, ulteriori sviluppi. E noi saremo qua. Grazie Mara Fraticelli, responsabile comunicazione FS Umbria e anche conduttrice della serata, abbiamo scoperto. grazie a te, veramente grazie di cuore. Buon sabato! Un Europost, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. Invito per giovani artisti alla Biennale Mediterranea. La Biennale d'Arte Mediterranea 17 cerca artisti visivi, registi, attori, musicisti, designer e chef al di sotto dei 35 anni. L'evento internazionale multidisciplinare, che si svolgerà a Milano dal 22 al 25 ottobre, si tiene ogni due anni in una città diversa dell'area mediterranea, con l'obiettivo di promuovere e fare rete tra giovani artisti europei, medio orientali e nordafricani. Per partecipare è necessario presentare una proposta specifica legata al concetto dell'invito, che per questa edizione è il cibo, entro e non oltre il 15 marzo. Per tutti i dettagli e le informazioni, collegatevi al sito bilungacem.org. L'altra Europa. My name is Liz Truman. Janine Bradbury. I'm Celia. Charlie. Colette. My name is Andrew McLaughlin, and I went to the University of Wollongong in Australia. Hamburg in Germany. I went to KU Leuven in Belgium. Paris. The University of North Carolina. You should go because it will be the best experience of your life. It's an unmissable opportunity. It will absolutely open your eyes. Studying abroad fits into my degree. It doesn't add an extra year like other UK universities. Quelli che state ascoltando sono studenti che raccontano della loro esperienza di un anno di studio all'estero, perché di questo parliamo e lo facciamo grazie alla presentazione di un bando per selezionare le banche interessate a diventare partner di un'iniziativa che è appunto quella di offrire prestiti per gli studenti che scelgono di andare a studiare all'estero, prestiti agli studenti per frequentare le lauree specialistiche e master di primo livello. Con noi per capire meglio questa iniziativa, che siamo appunto agli step iniziali, però può avere ricadute importantissime, perché si parla di oltre 200.000 prestiti previsti, questa è la stima. C'è Claudia Peritore, responsabile del settore università dell'agenzia Erasmus Plus Indire. Ciao Claudia, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno, grazie. Allora, qualcosa insomma nel suo piccolo di rivoluzionario, si parla da anni ovviamente, da oltre 20 anni di Erasmus, si parla di studiare all'estero, però si arriva a dare un ulteriore aiuto concreto agli studenti interessati a vivere questa esperienza. Esattamente, questa che si è appena aperta è un'altra delle grandi novità che sono state introdotte dal programma Erasmus Plus, il nuovo programma settennale della Commissione Europea per l'istruzione, che è partito nel 2014. Sì. Ora è partita quest'altra misura per attivare la garanzia dei prestiti per gli studenti che intendono svolgere un intero ciclo di studio in un altro paese rispetto a quello di residenza, soprattutto rispetto a quello dove hanno ottenuto il primo titolo di studio, ossia la laurea di primo livello, in modo da sostenere la possibilità della cosiddetta degree mobility, ossia un Erasmus diverso da quello che conosciamo tradizionalmente, non limitato temporalmente a massimo un anno, ma addirittura fino a 2 anni per conseguire il titolo di secondo livello. Mm-hmm. E quindi stiamo parlando di che ordine di cifre? Stiamo parlando, come hai anticipato tu, di circa 200.000 prestiti che potranno essere attivati grazie al 3,5% del budget totale per i 7 anni del programma Erasmus Plus che la Commissione Europea ha destinato per questa misura, per attivare quindi la possibilità per gli istituti di credito interessati di fornire prestiti con tassi di interesse agevolati e più bassi rispetto a quelli di mercato per gli studenti, e che avranno anche condizioni agevolate per la restituzione di questo prestito. Ad esempio ci sarà un anno di tempo dal conseguimento del titolo prima di dover cominciare a restituire il prestito, quindi anche possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro. Certo, gli studenti potranno far richiesta di prestiti con un tetto massimo di 12.000 euro per i corsi della durata di un anno o di 18.000 euro per quelli di 2 anni, ma tutto ciò sarà attivo da quando? Sarà attivo dalla metà del 2015, quindi è brevissimo, diciamo intorno a questo autunno gli studenti potranno avere già i nomi degli istituti di credito che sono stati garantiti dal Fondo per gli investimenti europeo, ai quali rivolgersi per poter richiedere questi prestiti, come ricordo nuovamente fino ad un massimo di 12.000 euro per un anno, fino ad un massimo di 18.000 euro per 2 anni, per coprire sia i costi di sostentamento durante la permanenza all'estero che i costi di iscrizione agli stessi corsi. Mm-hmm. Quindi adesso sono le banche che devono darsi da fare? Sì, in questa prima fase sì, il bando che è stato aperto dal FEI e dalla Commissione Europea è rivolto alle banche, alle agenzie di credito, agli istituti finanziari, che potranno rispondere a questo bando fino al 30 settembre 2020, naturalmente è aperto per tutta la durata del programma. Di anno in anno verrà data comunicazione degli istituti di credito selezionati e quindi da questo autunno 2015 sarà poi la volta degli studenti che finalmente potranno cogliere questa opportunità offerta dal programma Erasmus Plus. Certo, quindi il requisito fondamentale è quello di iscriversi a un corso di studi che permetta di conseguire un titolo e si svolga in un paese diverso da quello di residenza e diverso da quello dove si è conseguita la laurea di primo livello, che ovviamente possono coincidere a questi due paesi, giusto? Esatto, okay. Certo. E poi si fa la richiesta direttamente all'istituto e l'elenco di questi istituti e tutte le informazioni saranno reperibili dove? Saranno reperibili sicuramente sul sito del Fondo Europeo degli Investimenti, ma anche sul sito della Commissione Europea nella sezione dedicata al programma Erasmus Plus e nel sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire. Vorrei anche ricordare che gli studenti interessati dovranno essere iscritti ad un corso di secondo livello in uno dei 33 paesi partecipanti al programma Erasmus Plus, che sono gli stati membri dell'Unione con in più i paesi EFTA, la Macedonia e la Turchia. Ok, quindi insomma c'è comunque ampia scelta. Esatto, sì. Hai detto appunto i vari siti internet, ci vuoi ricordare un indirizzo in particolare che già i ragazzi o le ragazze interessate possano segnarsi? Vi ricordo www.erasmusplus.it, che è il sito internet del programma Erasmus Plus gestito in Italia dall'agenzia Indire, ISFOL e Agenzia Nazionale Giovani. Perfetto, grazie a Claudia Peritore, responsabile del settore università dell'agenzia Erasmus Plus Indire. Ci ritroveremo tra qualche mese per capire come appunto sta evolvendo il progetto. Grazie, benissimo. Buon lavoro. Ciao Claudia. Grazie mille a voi, ciao. Grazie. Europost-it. Lucca Film Festival ed Europa Cinema 2015. Dal 15 al 22 marzo torna Lucca Film Festival, che quest'anno è unito alle iniziative di Europa Cinema. Tra gli eventi anche l'omaggio a Roberto Nanni, regista di cinema sperimentale, una giornata dedicata a Mario Monicelli in occasione dei 100 anni dalla nascita e il consueto concorso di cortometraggi. Numerosi gli ospiti internazionali, tra cui Terry Gilliam, Alfonso Cuarón e Jeremy Irons. In programma a chiusura del festival, Lucca Effetto Cinema Notte, in cui la città diventerà un vero e proprio set cinematografico all'aperto. Per tutte le informazioni visitate il sito luccafilmfestival.it. Grab that cash with both hands and make a stash. New car, caviar, four-star daydream. Think of buying me a football team. Trasparenza e anticorruzione nel semestre italiano, il bilancio di Transparency International, lunedì 16 marzo, questo importante appuntamento, una mattinata intera dedicata al tema dell'anticorruzione e della trasparenza, tema attualissimo. C'è questo DDL che sta animando le giornate con i suoi continui rinvii, bilancio che verrà appunto presentato tra una decina di giorni, ma oggi abbiamo la fortuna e la possibilità di averne un breve assaggio. Diamo il benvenuto a Chiara Putaturo, coordinatrice del progetto per Transparency. Buongiorno Chiara, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Allora, con che spirito arriverete a questa giornata? Oggi insomma, abbiamo detto che non possiamo anticipare troppo i dati per rispetto anche ovviamente dei colleghi e della vostra conferenza stampa, però ci puoi dire almeno il polso della situazione col quale vi avvicinerete a questa presentazione? Sì, diciamo che ci avvicineremo abbastanza, in maniera abbastanza positiva. Mm-hmm. E abbiamo realizzato un monitoraggio della presidenza italiana dell'Unione Europea, quindi da giugno a dicembre 2014, sul livello di trasparenza e di impegno su alcuni temi anticorruzione. Si tratta di un'iniziativa che rientra in un progetto più ampio di monitoraggio di 4 presidenze dell'Unione Europea: Lituania, Grecia, Italia e Lettonia. Quindi alla fine sarà anche possibile fare un confronto tra le 4 presidenze. E in particolare abbiamo analizzato e presenteremo i risultati di tre pilastri. I primi due riguardano più la trasparenza, l'accesso alle informazioni, la possibilità di partecipazione da parte dei cittadini agli eventi aperti. Sì. E la trasparenza delle informazioni finanziarie, quindi del budget previsionale e del bilancio consuntivo. Il terzo pilastro riguarda invece più dei contenuti dei negoziati su alcuni temi che a noi sono molto cari e su cui abbiamo rivolto alcune raccomandazioni all'inizio della presidenza, in particolare quarta direttiva antiriciclaggio, la procura europea, la direttiva per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea e il partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti. Ecco, l'occasione di questa ricerca è puntare l'attenzione quindi non tanto sulla singola nazione quanto sia stato fatto all'interno di questo semestre di presidenza, preso come esempio di un semestre dove comunque si possono cambiare le cose? Sì, comunque per dare appunto qualche anticipo dobbiamo riconoscere che la presidenza italiana si è impegnata molto. I 4 temi che ho appena citato sono state priorità della presidenza italiana e abbiamo organizzato anche una conferenza a novembre per discutere questi temi, dove rappresentanti del governo italiano, dei ministeri italiani erano presenti e sono stati disponibili a discutere questi temi. E dal punto di vista dei progressi fatti su queste tematiche, diciamo che i risultati sono soddisfacenti, non ottimali, perché naturalmente bisogna raggiungere dei compromessi anche con gli altri paesi. Mm-hmm. E, quali sono ci puoi dire quali sono un po' i paesi che sono un po' il punto di riferimento per voi, a cui tendere, a cui le altre nazioni dovrebbero ispirarsi per darsi delle regole? Allora, diciamo che per ora dal confronto che abbiamo possiamo dire che la presidenza lituana è stata comunque abbastanza trasparente e per ora possiamo prendere come punto di riferimento appunto questa presidenza. Però bisogna dire che comunque, come verrà fuori il 16 marzo, anche la presidenza italiana si è impegnata molto a rispondere alle nostre richieste di pubblicazione di informazioni, in particolare di bilancio, anche se un po' tardivamente, però sono stati molto disponibili e collaborativi, e quindi potrebbe essere anche una best practice per il futuro e per le altre presidenze. Grazie Chiara per questa anticipazione. Qual è il sito di riferimento per seguire tutti i lavori e dove sicuramente si troveranno anche gli estratti poi della giornata e della vostra ricerca? Transparency.it. Perfetto, quindi assolutamente facile e diretto. Grazie Chiara, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Adesso ci fermiamo, un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Biennale Democrazia a Torino. La quarta edizione di Biennale Democrazia, che si svolgerà a Torino dal 25 al 29 marzo 2015, sarà dedicata al concetto di passaggi, collegamenti fra due luoghi separati da un confine, ma che possono anche designare delle svolte. Il ciclo di incontri si terrà in diverse sedi della capitale europea dello sport 2015 e offrirà occasioni per riflettere sull'identità, sulla direzione economica e sociale dell'Unione, sulle spinte separatiste e sui problemi di immigrazione che il vecchio continente si trova oggi ad affrontare. Per saperne di più, collegatevi al sito biennaledemocrazia.it. L'altra Europa. If you want to find the colonel, I know where he is, I know where he is, I know where he is. If you want to find the colonel, I know where he is, home again on 7 days leave. I saw him, home again on 7 days leave. I saw him, home again on 7 days leave. If you want to find the captain, I know where he is. Appeso al vecchio filo spinato, è quello che canta questa voce, con la quale riapriamo l'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Chiocciola Federico Taddia oppure chiocciola Euronet Plus R24 per trovarci sia su Twitter sia su Facebook. Con questa canzone andiamo a scoprire la guerra degli altri, un progetto bello, vivo, articolato, che vede coinvolti 80 studenti delle scuole di Gorizia, di Debrecen, Ungheria, e di Oradea, siamo in Romania, coinvolti in questo percorso finalizzato a scoprire come la memoria della Grande Guerra si è trasmessa attraverso le generazioni, i miti e le autorappresentazioni nazionali. Un progetto dell'associazione 4704 di Gorizia. Con noi Alessandro Cattunar, presidente dell'associazione medesima. Ciao Alessandro, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno, grazie per l'invito. Che cos'è la guerra degli altri? La guerra degli altri è un progetto, come dicevi tu, molto articolato, che parte dall'idea di scoprire quello che è il punto di vista dei giovani su un tema molto dibattuto in questi mesi e anche nei prossimi anni, che è quello del centenario della Grande Guerra. Quindi provare a capire come le nuove generazioni affrontano questo grande evento storico di cui tutti parlano. Vorremmo capire soprattutto qual è il loro immaginario, proprio come se lo immaginano, come lo percepiscono, come lo vivono in prima persona. Mm-hmm. Dall'altro lato anche scoprire e capire che gli immaginari sono molti, i punti di vista sono tanti e diversi, e per questo abbiamo pensato di far dialogare, di far incontrare studenti italiani, sloveni, ungheresi e romeni. Certo. C'è l'idea, da un lato il punto di vista dei giovani, dall'altro i tanti diversi sguardi. Uno stesso evento che ci ha toccato tutti in quanto europei. E proprio in questi giorni i ragazzi di Trieste, se non erro, hanno ospitato di Gorizia, di Trieste, dove adesso dammi perché mi sono perso quelle città. Diciamo di Gorizia e del Carso hanno ospitato i ragazzi ungheresi e romeni che sono venuti a trovarci. Ok, mi ero perso verso Trieste, non so no, perché. Ma certo, c'erano tanti luoghi diversi coinvolti. E con noi c'è anche Sania Vogrich, che è una studentessa della terza liceo scientifico dell'Istituto Gregor Cicce di Gorizia. Ciao Sania, benvenuta Buongiorno. Anche a te. Buongiorno. Ciao Sania. Allora Sania, cosa avete combinato in questi giorni? Tu ospitavi i compagni di dove? Chi avevi in famiglia? Io avevo una ragazza ungherese di Debrecen. Sì. E mi sono trovata molto bene con lei. Infatti, all'inizio avevo un po' paura perché non avevo mai partecipato a questo genere di progetti. E invece poi si è rivelata un'esperienza veramente bella. Lei era molto carina, ci ha fatto conoscere la cultura ungherese, ci ha portato qualcosa di tipico, ad esempio il vino, e ci ha fatto conoscere un po' la lingua, e anche noi abbiamo dato qualcosa a lei, qualcosa di nostro, e quindi uno scambio di culture, ma anche uno scambio di idee sulla Prima Guerra Mondiale, che è infatti questa idea centrale. Di cui tu cosa sapevi? Sapevi già qualcosa della Prima Guerra Mondiale, al di là di quello che hai studiato a scuola in preparazione al progetto? Beh, sicuramente si è tramandato dai miei nonni alcune storie, okay, eccetera. Però a parte il punto di vista storico, non ho mai approfondito questo punto di vista umano sul quale si concentrava il progetto. Non solo come si impara la Prima Guerra Mondiale a scuola, come stati che combattono contro gli altri stati, ma come persone, come soldati che sono in trincea e vivono questa esperienza. Sono passati 100 anni, è un viaggio nel tempo o ritrovi concetti, ritrovi parole che sono comunque ancora attuali? Beh, sicuramente nei musei per me era stato molto, molto interessante vedere oggetti degli altri tempi, ma comunque credo che l'idea della guerra sia ancora una cosa attuale e certamente è un problema dell'Europa di oggi. Mm-hmm. Alessandro, credo che le parole di Sania dicano tutto del sì, ci confortano, vuol dire che stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci eravamo posti col progetto. Sì, un progetto vivo, no? E questa credo che sia la cosa bella, vivo, sì, perché vorremmo poi che i ragazzi anche realizzassero una cosa, cioè raccontassero poi all'esterno questa loro esperienza, questi loro punti di vista. Per questa conclusione del progetto gli chiederemo di realizzare degli storytelling multimediali, delle vere e proprie guide turistiche emotive in cui assembleranno video, immagini, loro interviste, emozioni, cercando di raccontare all'esterno, agli altri, come loro hanno vissuto questa esperienza di visita dei luoghi della Grande Guerra e di conoscenza delle esperienze di chi l'ha vissuto in prima persona. Quindi vorremmo anche comunicare all'esterno a chi il progetto non ci ha partecipato in prima persona. Certo, l'Europa parte anche da questo, parte appunto scoprendo la guerra degli altri, che proprio è la guerra nostra, e dalla guerra degli altri si può arrivare all'Europa nostra. 4704.it il sito dell'associazione. Grazie davvero ad Alessandro Kattunar e grazie anche a Sania Vogrich. Sania, porta il nostro ringraziamento e il nostro saluto a tutti gli altri 80 studenti che stanno partecipando al progetto. Grazie davvero, ciao e buon sabato. Grazie a voi. A voi, ciao. Ciao, ciao. Europost-it. Centri giovanili europei. Opportunità offrisi. Avete meno di 30 anni e volete fare un'esperienza in Francia o in Ungheria? I centri giovanili europei di Strasburgo e Budapest forniscono strumenti importanti per la partecipazione dei giovani alla costruzione dell'Europa. Sessioni di studio, simposi e progetti speciali sono le attività principali a cui è possibile partecipare per contribuire allo sviluppo delle politiche giovanili del Consiglio d'Europa. Per tutti i dettagli visitate il sito coe.int/youth e inviate la vostra candidatura entro il 1 aprile. Grazie. grazie. Senza di voi l'Italia sarebbe più povera e ingiusta, sono le parole che ha pronunciato pochi minuti fa il Presidente della Repubblica Mattarella in questa giornata, in omaggio dell'8 marzo. Tra le persone che hanno ascoltato in diretta live queste parole c'era anche Silvia Costa, eurodeputata, presidente della Commissione Cultura, che è qua con noi. Ciao Silvia, bentornata. Buongiorno, ciao, come va? Menti per la nostra trasmissione. Silvia, ti abbiamo chiesto e ti abbiamo chiamata non solo perché appunto oggi eri, eri dal... Sì, ero qui a sentire questo magnifico intervento, che tra l'altro appunto ho detto questa frase così forte, così importante, e anche dicendo che la crisi è stata pagata tutto dalle donne, ma che senza le donne appunto la società sarebbe più povera e più ingiusta, come dice egli. E quindi ha detto anche una frase molto bella, ha detto: senza noi non dobbiamo smettere mai di ringraziarvi per questa presenza, anche spesso silenziosa, ma insomma, che anche nelle nuove generazioni vede molto impegno e purtroppo ancora molta diversità. Mm-hmm. E tu, Silvia, sei stata protagonista anche però di una giornata, il 5 marzo, molto importante presso il Parlamento europeo. Si è parlato di emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso l'educazione, una giornata di studio. Abbiamo visto tanti numeri anche uscire da questa giornata. Qual è la fotografia sintetica? Sintetica è che io ho detto appunto che la vera rivoluzione pacifica del Novecento è stata sicuramente in Europa la scolarizzazione femminile. Anche se dico tre dati velocissimi che possono dimostrarlo. Noi oggi abbiamo una dispersione che è ancora 17% dei ragazzi che non completano il ciclo di studi, ma il 16% sono maschi e 12% femmine, quindi sono meno le donne, e abbiamo una frequenza maggiore delle ragazze nelle scuole superiori ed una maggiore percentuale di donne laureate. Però abbiamo ancora segregazione in alcuni comparti di più umanistici e meno scientifici, e oggi la Giannini parlava di una maggiore difficoltà delle donne, forse anche come sicurezza in se stesse, lo diceva anche la preside della facoltà di agraria che è intervenuta come cavaliere del lavoro neonominata. Le donne nella ricerca hanno grandi talenti, ma spesso non sono consapevoli di questi loro talenti. Ecco, c'è anche questo tema, e poi c'è il tema naturalmente fatto che questa interessante capacità intellettuale e comunque di competenze delle donne non ha un riscontro adeguato nel mercato del lavoro. Quindi c'è un tema che riguarda, per esempio, io penso che una delle linee da fare è di la dual education, cioè questa educazione che a tutti i livelli di scuola, in un livello di grado, consente un'alternanza scuola-lavoro, di sperimentarsi, di conoscere le proprie attitudini anche con questa esperienza, credo che sia utile soprattutto per le donne. L'altra grande cosa è che le donne sono spesso titolari di competenze, quelle che vengono chiamate non formali o informali. Le soft skills, che sono la capacità di adattamento, la capacità di lavoro in equipe, eccetera, che a ben guardare sono esattamente non solo competenze che spesso le ragazze e le donne acquisiscono di più e meglio, ma che dall'altra parte oggi nell'innovazione anche dell'organizzazione delle imprese, del lavoro, sono molto più centrali e importanti. Si tratta perciò di fare molto più di orientamento, molto più curvare le competenze anche a quelle che sono quelle richieste, e riconoscerle nei curricula. Certo, e non farlo solo in occasione della giornata delle donne. Soprattutto. È la quotidianità il tema. Grazie davvero Silvia per le tue parole, grazie per questa importante giornata. Europarl... E a tutte le donne. Certo, assolutamente. Grazie, ciao, buon 8 marzo. L'altra Europa. Vater hätte gesagt, endlich mal macht die Nutzlose Tunte irgendwas Technisches und Nutzvolles. Quello che state ascoltando è un trailer, è il trailer di un film, si intitola Welcome Home. È stato realizzato da Silvia Maggi e Silvia Radicione, due registe, due filmmaker italiane, che hanno messo al centro questa casa per vivere la diversità. Esiste a Berlino, esiste una residenza dedicata ad anziani della comunità lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Il perché abbiano scelto di accendere le loro telecamere su questo progetto, su questa casa, ce lo spiega direttamente Silvia Maggi, che è qua con noi. Ciao Silvia, benvenuta. Ciao, grazie mille per l'opportunità, grazie. Tu sei una giornalista, ti occupi di comunicazione, vivi a Berlino e hai scoperto questa storia, immagino. Sì, in realtà è stato abbastanza casuale l'approccio a questa casa, perché c'erano dei cartelli nel 2013 a Berlino nella metro che dicevano: sei gay, sei anziano, non abbiamo un posto per te. E quindi un po' per curiosità, un po' per spirito giornalistico, ho contattato queste persone e assieme alla mia amica, collega, ricercatrice Silvia Radiccioni abbiamo deciso di addentrarci appunto nello scoprire un po' di più su questa realtà. Mm-hmm. E abbiamo scoperto appunto questo progetto fantastico, totalmente auto-organizzato, che è questa residenza per anziani LGBT nel cuore di Berlino, nel quartiere di Charlottenburg. Mm-hmm. E il nostro focus, diciamo, è stato soprattutto il concetto di cura e di comunità fuori dal contesto appunto eteronormativo, perché queste persone non hanno nella maggior parte dei casi l'appoggio di una famiglia tradizionale, diciamo, alle spalle, e quindi invecchiare è ancora più problematico. Già appunto la vecchiaia di per sé non è che sia semplice. Certo. E in più appunto con essendo appunto omosessuali già hanno vissuto emarginati gran parte della loro vita. E si sono attivati e hanno creato appunto questa realtà fantastica dove hanno uno spazio sicuro, uno spazio dove si prendono cura l'uno dell'altro, dove appunto, come dicono loro nel documentario, invecchiare non è starsene soli in casa, ma è vivere una vita socialmente attiva e spronarsi giorno per giorno, aiutarsi e sì, curarsi, prendersi cura l'uno dell'altro. E 24 appartamenti capaci di ospitare una quarantina di persone, ma è l'unica realtà di questo tipo che c'è in Germania? Guarda, attualmente in Germania si è aperta una cosa simile che ci hanno comunicato proprio quando abbiamo fatto lo screening al Museo Gay. Mm-hmm. A Köln, a Colonia, però penso che sia ancora l'unica che sia totalmente auto-organizzata, che è appunto la parte che ci ha colpito di più, perché ogni decisione dalla cura alla biblioteca, a qualsiasi cosa, è presa direttamente dagli abitanti della casa. Quindi penso che a Köln sia più istituzionale per quanto mi hanno raccontato, però ti dico, so cose di aperti. Che ti hanno riportato. Silvia, è strano come racconto, tu hai parlato di condivisione, di autoaiuto, poi visto da fuori, senza conoscere, senza neanche aver visto il documentario, che ammetto di non aver ancora visionato, però sembra una ghettizzazione finale, nel senso che non è una sorta di, dopo aver passato una vita a dover difendersi, come hai detto tu, a dover cercare di superare, combattere contro pregiudizi, contro esclusioni, anche nell'ultima tappa della vita si trovano nella stessa condizione? Guarda, in realtà è proprio tutt'altro che una ghettizzazione, perché se pensi, per appunto molti anziani LGBT, ritirarsi in una casa di riposo standard, sì, significherebbe tornare ad essere comunque invisibili, a subire discriminazione, a tornare nel maledetto armadio che li ha tenuti rinchiusi in gran parte della loro vita. Le storie che abbiamo sentito intervistando e passando gran parte dei nostri giorni per un anno con queste persone sono storie di attivismo politico, di lotta, sono delle persone estremamente forti. E se pensi che dopo aver vissuto una vita lottando per appunto voler dimostrare ed essere quello che si è, non sarebbe giusto per queste persone a 70, 80, 75, 85 anni dover ritornare a nascondersi, perché è anche comprensibile che una persona totalmente eterosessuale che ha vissuto in un contesto eteronormativo di 80 anni faccia purtroppo fatica a confrontarsi con una persona che ha tutto un altro vissuto di attivismo politico, di attivismo omosessuale, di attivismo gay, lesbian, transsexual, quindi non... Certo. Quasi per appunto fenderli, mm-hmm, c'è questo posto. Assolutamente, credo che sia una storia che appunto debba essere raccontata, debba essere diffusa, perché sono quelle piccole storie in grado, secondo me, di cambiare le cose. Dacci il sito del film per avere qualche, certo, informazione anche sulle future proiezioni. Sì, allora volentieri, il sito è www.welcomehomedocumentary.wordpress.com. Sì. Poi c'è una pagina Facebook che è Welcome Home The Documentary. Mm-hmm. E qui ci sono tutte le proiezioni aggiornate, sia io che Silvia aggiorniamo costantemente il sito. Siete anche in Italia o... Sì, ci saremo questa settimana, sì, saremo nei Circoli Arcigay il 9 marzo a Modena. Perfetto. Il 10 marzo a Bologna, il 12 a Ravenna. Benissimo. Poi torneremo a aprile, il 24 alla Cineteca di Milano, allo Spazio Oberdan, e il 26 al Pink di Verona. Perfetto, quindi il 9 marzo, sì, quindi dopodomani, lunedì a Modena, la prima tappa italiana, sì, insomma nei prossimi giorni, comunque sul sito c'è l'intero calendario. Grazie Silvia, complimenti. Grazie a te a voi, e all'altra Silvia per l'ottimo lavoro. Ciao. Ciao, ciao. Buona giornata, arrivederci. E questo grazie va anche a tutti voi, grazie per essere stati in nostro ascolto come sempre, un grazie alla squadra, Valeria Bernardi e Claudia Schiattone con me oggi in assistenza, Silvia Righini e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata. L'appuntamento è a sabato prossimo con l'Altra Europa, domani invece alle 10.30 sarò sempre in onda con Si Può Fare con la vetrina del crowdfunding. Buon weekend e ovviamente buon 8 marzo ancora a tutte le donne, ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.